abbiamo in sala attività dove gli ospiti svolgono alcune attività. Sì, mi chiamo Federica Gerola, ho 41 anni, faccio questo lavoro da quasi 20 e ho un bambino di 13 anni, sono sposata, abito a Serrada, ma sono nata a Terragnolo. Si vive di sogni? Sarebbe bello, però purtroppo la vita non sempre lo permette, si vive lavorando. Come è iniziata la tua attività? Non era prevista, sicuramente quando avevo la vostra età non avrei mai pensato di fare questo lavoro. Poi la vita, ho lasciato l'università e mia sorella mi ha detto proviamo a fare questo corso per lavorare in casa di riposo. Ho detto proviamo, tanto studiare non facevo fatica e quando ho fatto la prima esperienza lavorativa sul campo ho visto che era la mia passione, che mi piaceva, che era una cosa che mi dava emozione e gratitudine e ho deciso di continuare. Quindi ho fatto la scuola e poi ho iniziato subito a lavorare qui nel 2003. Quali sono state le aspettative? Non ne avevo all'inizio perché non sapevo cosa andavo ad affrontare. Poi quando ho iniziato ho capito che l'aspettativa era rendermi utile, aiutare chi era in difficoltà e vedere che il mio lavoro poteva essere utile non solo materialmente ma anche dal punto di vista emotivo. Quali sono state le difficoltà? Stare per tanto tempo a contatto con persone che hanno difficoltà, che soffrono, ti segna un po' e quindi c'è sempre bisogno di rielaborare, capire fin dove ci si può spingere e dove ci si deve un po' fermare. Quindi sapere calcolare bene il limite per non andare oltre, per non rimanere schiacciati sotto il proprio lavoro. Come ha inciso il fatto di essere donna sulle tue scelte di vita? Quali stereotipi incontrati? Essendo un lavoro sociale di assistenza, è un po' l'inverso. Ci sono 90% persone femminili che fanno questo lavoro e meno maschile, quindi non ho trovato grandi disparità tra maschio e femmine o grandi difficoltà. Poi, essendo un lavoro anche pubblico, abbiamo anche tanti diritti rispetto al privato, che sei un po' più limitato. Del mio lavoro? Vabbè, dal punto di vista professionale sono cresciuta, sono diventata da semplice operatrice a responsabile delle operatrici e quindi ho avuto questa crescita professionale. Poi basta, cioè, io mi sento sempre comunque operatrice, quando c'è bisogno di lavorare praticamente sui piani io ci sono, insomma non mi vedo superiore agli altri, anche perché ritengo che il nostro lavoro sia fatto di aiuto e collaborazione, quindi tutti sono utili per lo scopo principale che è il benessere dell'ospite. Quali le strategie che hai messo in campo? In che senso? Che strategia? Le strategie che hai usato nel lavoro. Ma non ci sono strategie, c'è il buon senso, l'intelligenza, la capacità di mettersi nei panni dell'altro, di chi soffre, e quindi cercare di aiutarlo. Poi dal punto di vista proprio tecnico, ci sono le linee guida, i protocolli, le procedure, quindi guardando quelle riesci a portare avanti il tuo lavoro, a fare la giornata. Come vedi il futuro? Spero migliore di adesso, visto questi anni che abbiamo passato, che è stata dura per voi ragazzi, ma anche per gli ospiti e per noi che abbiamo lavorato nell'assistenza. Spero che ritorni come il passato, quindi con più libertà per gli ospiti, per noi, e meno ansia, meno protocolli nuovi. Spero di ritornare al passato e che si andava molto bene. E spero che voi giovani capiate l'importanza di questo lavoro. Ha un messaggio da dare ai ragazzi? Penso che il lavoro sociale sia complesso ma che possa dare anche tante soddisfazioni, quindi nell'ambito della vostra scelta prossimo anno di pensare a qualcosa di socialmente utile, vedi infermiera, vedi operatore, vedi assistente sociale. Da bambina qual era il suo lavoro dei sogni? È tutto diverso, avrei voluto fare la criminologa. Quella che studia i crimini, per vedere insomma dal punto di vista psicologico, poi alla fine niente, ho cambiato completamente, però penso che ho fatto tombola facendo questo lavoro. Volevo, Federica, che tu dicessi ai ragazzi proprio qual è stato il tuo percorso di studi, no? Ok. Perché, diciamo, io lo conosco, però se lo ridici anche a loro, perché tu hai detto che hai lasciato l'università, poi hai fatto un altro corso, ma in realtà a me sembra un po' che sia sempre stato tutto un po' concatenato, sì, no? Io ho fatto... Riflettendoci un po'. Ho fatto, vabbè, il liceo psicosociopedagogico Rovereto, Fabio Filzi, sarai maestra. Poi ho fatto un anno di università, ho fatto giurisprudenza appunto per intraprendere poi la strada in caso di criminologia, ma ho visto che non faceva per me, troppo tecnico, troppe cose da studiare a memoria, e quindi ho lasciato. Sono andata a lavorare e poi a settembre ho fatto il corso di OSS facendo il test d'ingresso, sono passata e quindi ho fatto... E 2 anni e mezzo di corso OSS, e ho preso l'attestato nel 2003, marzo 2003, aprile 2003 ho iniziato a lavorare qui. Le persone che vivono qua, li chiamiamo ospiti anche se sarebbero residenti, sono le persone in difficoltà che non possono essere gestite a domicilio e che quindi vengono e stanno qui e vivono qui, fanno l'ultimo periodo della propria vita all'interno di questa struttura, che vengono gestiti dalla mattina alla sera, sia dal punto di vista assistenziale che sanitario. Cosa cambia la casa dei nonni a Casalane? Allora, la casa dei nonni era stata acquistata da Casalane e quando hanno ristrutturato la struttura, e quindi gli ospiti, che sono più di 68, erano stati divisi in due. Quindi metà erano in casa dei nonni, metà nella struttura nuova qui. Poi, quando la casa è stata conclusa, tutti gli ospiti sono ritornati in struttura e sono rimasti degli appartamentini. Là vivono degli anziani che non possono stare magari a casa propria perché strutturalmente, oppure hanno difficoltà di riscaldamento, vengono messi in quegli appartamentini, vengono un po' gestiti da personale assistenziale che si chiama domiciliare, che girano nelle varie abitazioni, e gli danno un minimo aiuto, non hanno una necessità assistenziale così importante come gli ospiti della struttura. Bene. Come sono cambiati i nonni 20 anni fa e le nonne di adesso? Sono cambiati molto, mentre una volta entravano anche per problemi sociali, però erano abbastanza indipendenti, adesso entrano ospiti con grossi problemi sanitari, ospiti che a domicilio non possono essere gestiti e quindi vengono inseriti nelle strutture, quindi sia fisicamente che psicologicamente, che per l'operatore è cambiato molto, insomma è molto, molto fisico anche adesso, che perché sono ospiti che entrano molto più grandi, più pesanti, una volta anche la statura media era molto più bassa, e con problemi sanitari complessi. Il numero, circa quante persone lavorano dentro? Come operatore o in totale? Sì. In totale? Sì, sì, in totale. Tra operatori, infermieri, tutti, siamo una settantina. Cosa significa fare volontariato? Chi lo fa? O comunque chi lo può fare? Ma posso chiedere all'animatrice, perché lei è l'animatrice che... Cosa? Il volontariato, puoi spiegare come funziona? Possono... Può venire qualsiasi persona a fare volontariato, è benvenuto tra il resto. Di qualsiasi età? Di qualsiasi età, ragazzi, se avete voglia. Nel senso che a loro, soprattutto agli anziani, piace chiacchierare, essere ascoltati, soprattutto, no? E chi gioca a carte, chi lavora a maglia, cioè c'è tanto da fare, nel senso che dovrebbe essere uno a uno quasi quasi, no? Il rapporto. E sono tanti, insomma, qua. In questa sala c'è 38-40 persone, hanno tutto il loro posto a tavola, hanno le loro cose da fare, però ogni 30 secondi qualcuno ha bisogno, no? È un bicchiere d'acqua, mi è caduto qualcosa, e avanti, cioè... È impegnativo. È impegnativo, diciamo.